579. Torta ricciolina, seconda maniera. Fate una pasta frolla con farina grammi 170, zucchero grammi 70, burro grammi 60, lardo grammi 25, uova numero 1. Distendetene una parte alla grossezza di uno scudo nel fondo di una teglia di rame del diametro di 20 a 21 centimetri, prima unta di burro, e sopra la medesima versate un marzapane fatto nelle seguenti proporzioni. Mandorle dolci con 3 amare, sbucciate grammi 120, zucchero grammi 100, burro grammi 15, arancio candito grammi 15, un rosso d'uovo. Pestate nel mortaio le mandorle con lo zucchero, aggiungete dopo l'arancio a pezzettini e col burro, il rosso d'uovo e una cucchiaiata d'acqua fate tutto un impasto. Col resto della pasta frolla formate un cerchio e con un dito intinto nell'acqua attaccatelo giro giro agli orli della teglia. Distendete il marzapane tutto eguale e copritelo con un suolo alto mezzo dito di taglierini sottilissimi, perché questi devono essere come una fioritura, non la base del dolce, ed ungeteli con grammi 20 di burro liquefatto, servendovi di un pennello. Cuocete la torta in forno a moderato calore e dopo spargetele sopra grammi 10 di cedro candito a piccoli pezzettini. Spolverizzatela con zucchero a velo vanigliato e servitela un giorno o due dopo cotta, perché il tempo la rammorbidisce e la rende più gentile. Dei taglierini fatene per un uovo, ma poco più della metà basteranno.